Ad alta voce. Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Da Riccione venimmo via il 10 di ottobre, un sabato pomeriggio. Intorno alla metà del mese precedente il barometro si era fissato sul bello stabile. Si susseguivano giornate splendide, con cieli senza una nuvola, il mare calmissimo. Ma chi ci badava più? Chi aveva l'animo di accorgersi di queste cose? Ciò che mio padre aveva tanto temuto si stava verificando, purtroppo. Nemmeno una settimana dopo la partenza di Fadigati, su tutti i giornali italiani, il Corriere Ferrarese in testa, aveva avuto inizio la violenta campagna demigratoria che al termine di un anno ci avrebbe portato alle leggi razziali del 38. Ricordo quei primi giorni come un incubo. Mio padre, affranto, che usciva la mattina presto a caccia di carta stampata, gli occhi di mia madre, perennemente gonfi di lacrime, Fanny ignara, eppure in qualche modo già consapevole di tutto, il gusto doloroso da parte mia di chiudermi in un silenzio ostinato. Oramai, per non essere costretto a udire la signora Lavezzoli dissertare come se nulla fosse di cristianesimo e di ebraismo, nonché magari della colpa che era da attribuirsi o meno agli israeliti a proposito della crocifissione di Gesù Cristo, essa disapprovava in linea di massima la nuova politica del governo nei nostri confronti, e tuttavia anche il Papa, in un certo discorso del 29, eccetera, eccetera. Oramai, dico, non mi facevo più vedere nemmeno sulla spiaggia. Mi bastava, e ne avevo d'avanzo, dover ascoltare mio padre, il quale, in vana polemica con gli articoli velenosi che leggeva di continuo, si intestava a enumerare i meriti patriottici o addirittura fascisti degli ebrei italiani. Ero disperato anche io, in realtà. Mi sforzavo di portare avanti la preparazione del mio esame. Ma facevo soprattutto lunghe passeggiate solitarie in bicicletta sulle colline del retroterra. Una volta, senza avvertire nessuno, col risultato al ritorno di ritrovare mio padre e mia madre, ambedue in pianti, mi spinsi fino a San Leo e in Carpegna, stando via nell'insieme quasi 3 giorni. Pensavo senza tregua al prossimo rientro in città. Ci pensavo con una specie di terrore, con un senso via via crescente di intima lacerazione. Riprese a piovere da ultimo e fu necessario partire. Come sempre mi succedeva quando tornavamo dalla villeggiatura, appena arrivato a Ferrara non seppi resistere al desiderio di fare subito un giro per la città. Mi feci dare la bicicletta dal portiere di casa nostra, il vecchio Tubi, e prima ancora di rimetter piede nella mia stanza o di telefonare a Vittorio Molon e a Nino Bottecchiari, me ne andai a Zonzo, senza una meta precisa. Finii verso sera sulla Mura degli Angeli, dove avevo passato tanti pomeriggi dell'infanzia e dell'adolescenza, e in breve, pedalando lungo il sentiero in cima al bastione, fui all'altezza del cimitero israelitico. Scesi allora dalla bicicletta e mi addossai al tronco di un albero. Guardavo al campo sottostante, in cui erano sepolti i nostri morti. Fra le rare lapidi, piccoli per la distanza, vedevo aggirarsi un uomo e una donna di mezza età. Probabilmente 2 forestieri, fermatisi fra un treno e l'altro, mi dicevo, se erano riusciti a ottenere dal dottor Levi la dispensa necessaria per visitare il cimitero di sabato. Giravano fra le tombe con cautela e distacco da ospiti, da estranei. Ed ecco, guardando a loro e al vasto paesaggio urbano che mi si mostrava di lassù in tutta la sua estensione, ad un tratto mi sentii penetrare da una gran dolcezza, da una pace e una gratitudine tenerissime. Il sole al tramonto, forando una scura coltre di nuvole bassa sull'orizzonte, illuminava vivamente ogni cosa. Il cimitero ebraico ai miei piedi, l'abside e il campanile della chiesa di San Cristoforo poco più in là, e sullo sfondo, alte sopra la bruna distesa dell'abitato, le lontane moli del castello Estense e del Duomo. Mi era bastato ritrovare immutato il volto materno della mia città, riaverlo ancora una volta tutto per me, perché quell'atroce senso di esclusione che mi aveva tormentato nei giorni scorsi cadesse di colpo. Il futuro di persecuzioni e di massacri che forse ci accendeva, ne avevo continuamente udito parlare fin da bambino come di un'eventualità per noi ebrei sempre possibile, non mi faceva più paura. Ma poi chissà, mi ripetevo, tornando verso casa, chi poteva leggere nel futuro? L'illusione, tuttavia, durò poco, almeno per me. L'indomani mattina, mentre passavo sotto i portici del caffè in Corso Roma, qualcuno gridò improvvisamente il mio nome. Era Nino Bottecchiari. Sedeva a un tavolino all'aperto, da solo, e per alzarsi poco mancò che non rovesciasse la tazzina dell'espresso. «Bentornato!» esclamò, venendomi incontro a braccia aperte. «Da quando abbiamo il piacere e l'onore di riaverti fra noi?» Saputo che ero a Ferrara dalle 5 del giorno precedente, si lamentò che non gli avessi telefonato. «Naturalmente dirai che lo avresti fatto oggi stesso, ad ora di pranzo», aggiunse con amarezza affettuosa. «Nega, se lo puoi». Gli avrei telefonato. Stavo davvero pensandoci quando lui mi aveva chiamato, ma proprio per questo tacqui, confuso. «Vieni, che ti offro un caffè», riprese Nino, infilando il braccio sotto il mio e cercando di portarmi verso il suo tavolino. «Accompagnami a casa», proposi. «Così presto, se non è nemmeno mezzogiorno», replicò egli. «Vieni su, non vorrei mica perdere l'uscita dalla messa». Mi precedette tra i tavolini. Io gli tenevo dietro, sebbene di malavoglia, quando di botto mi fermai. Tutto mi disturbava, tutto mi feriva. «Beh, che cosa c'è?» fece Nino, che già si era risieduto. «Devo andare, scusa», borbottai, alzando una mano per salutarlo. «Aspetta!» Il suo grido e la lunga manovra a cui fu costretto per pagare, il cameriere Giovanni non aveva da dargli il resto di un biglietto da 50 lire, bisognò che, ciabattando e brontolando, il vecchio andasse a cambiarlo alla farmacia Barilari, lì accanto, attirò immediatamente su Nino e su me l'attenzione degli astanti. Mi sentii osservato con insistenza da molti sguardi, perfino attorno al tavolo degli squadristi, a cui quel giorno, oltre al solito triumvirato Aretusi, Sturla, Bellistracci, sedevano il segretario federale bolognesi e Gino Cariani, il segretario del GUF, la conversazione, prima assai animata, cadde di colpo. Dopo essersi voltato indietro a sbirciarmi, Cariani, servile come sempre, si piegò a sussurrare qualcosa all'orecchio di Aretusi. Vidi Sciagura fare una smorfia e annuire gravemente. In attesa che Nino riuscisse ad avere il suo resto, mi allontanai di qualche passo. Era una bellissima giornata. Corso Roma appariva allegro e animato come mai. Da sotto il portico del caffè, attraverso le colonne, guardavo inerte al centro della strada, dove decine di biciclette, montate in prevalenza da studenti medi e scintillanti al sole di vernici e cromature, volteggiavano fra la folla domenicale. Un biondino di 12 o 13 anni, ancora coi calzoni corti, passò rapido su una Bianchi da corsa azzurra. Alzò un braccio e gridò «Ehi!». Trasalii e mi volsi per vedere chi fosse, ma era già sparito oltre l'angolo di Giovecca. «Quando ecco Nino, finalmente?» «Scusami», disse affannato. ma con quella lumaca di Giovanni bisogna avere pazienza. Ci avviammo in direzione del Duomo, camminando uno a fianco dell'altro lungo il marciapiede di sinistra. Erano stati in villeggiatura come gli altri anni a Moena, in Val di Fassa, diceva intanto Nino, raccontando di sé e della famiglia. Prati, abeti, mucche, campanacci, la solita roba, tanto che, e adesso se ne rammaricava, aveva ritenuto superfluo mandarmi la sacramentale cartolina. Sì, si era annoiato parecchio, sbuffò. Fortuna tuttavia che in agosto avevano avuto ospite per una quindicina di giorni lo zio Mauro, l'ex deputato socialista, il quale, appena arrivato, aveva subito elettrizzato l'ambiente del parentado. Loro due poi, zio e nipote, avevano compiuto insieme anche diverse belle escursioni. Il vecchio è sempre in gamba, te lo garantisco io, e mi strizzò l'occhio. Che tempra! Si arrampicava su per le montagne che era un piacere, cantando Bandiera Rossa a squarciagola. Insomma, abbiamo fatto amicizia e mi ha promesso, anzi, che appena sarò laureato mi prenderà nello studio a fare pratica. Eravamo arrivati di fronte all'ingresso principale dell'arcivescovado. Passiamo per di qua, propose Nino. Mi precedette nell'androne fresco e buio. Sul fondo, tutto al sole, il giardino interno splendeva immobile. E subito il rumore di Corso Roma fu lontano, un brusio nel quale i campanelli delle biciclette si distinguevano appena. Nino si fermò. A proposito, chiese, hai saputo di Delilier? Fui afferrato da una strana sensazione di colpa. Ma sì, balbettai assurdamente, l'ho veduto a Riccione il mese scorso. Non eravamo nella stessa compagnia, però. Gli avrò parlato una volta o due. Oh, ma questo lo sapevo, mi interruppe Nino. La notizia che era a Riccione insieme con quella ignobile nave scuola del dottor Fadigati è arrivata subito anche a Moena. No, no, non è di questo che intendevo parlare. E difatti, senza darmi il tempo di riprendermi dall'imbarazzo, mi informò come una settimana prima avesse ricevuto una lettera di Delilier niente meno che da Parigi. Peccato, non l'aveva con sé, disse, battendosi con le palme aperte sulle tasche della giacca. Me l'avrebbe mostrata, comunque, ne valeva la pena. Un documento di cinismo più ributtante non gli era mai capitato fra le mani. Che schifo, esclamò enfaticamente. Ricordi quello che diceva? Diceva che un giorno o l'altro avrebbe fatto un colpetto e poi si sarebbe dedicato alla box. La box, figuriamoci. Si sarà già messo alle costole di qualche altro facoltoso finocchio, mi pare di vederlo. Se la Francia non fosse quel disastro che è, e qui il fascismo ha ragione, si guarderebbe dal concedere il permesso di soggiorno ad avventurieri di quel genere lì. Quanto a noi, all'Italia, lo sai che cosa dovremmo fare? Fucilarli, ecco, e buonanotte. Ma è una società, quella italiana, una società, voglio dire, degna di questo nome? E sentirai che tono quello della lettera. Ci copre di insulti, ci tratta tutti quanti da figli di papà, da provinciali, da borghesi. Se la prende anche con te, è naturale. Che cosa dice? Domandai macchinalmente. Mi darà del lurido ebreo, immagino. Nino esitò a rispondere e nella penombra dell'androne lo vidi arrossire. Vieni, vieni che la messa sarà già finita, disse prendendomi sotto braccio. E mi trascinò, quasi a forza, verso l'uscita secondaria dell'arcivescovado, quella che, proprio all'angolo con via Gargadello, dà su piazza del Duomo. Fino a pochi mesi prima io non avevo mai mancato la domenica mattina l'uscita delle 12:30 da San Carlo o dal Duomo. Non l'avrei mancata nemmeno quel giorno, dopo tutto. Ma oggi, dicevo a me stesso, oggi non mi trovavo più laggiù, mescolato agli altri, magari a ridere e a scherzare sul piccolo e grande argomento, la prossima sfilata delle signorine e delle madri di buona famiglia. Addossato al portone del palazzo arcivescovile, confinato in un angolo della piazza. La presenza al mio fianco di Nino Bottecchiari aumentava semmai la mia amarezza. Mi sentivo tagliato fuori, irrimediabilmente, un intruso. Risuonò in quell'attimo il grido rauco di un venditore di giornali. Era Cenzo, un quasi deficiente di età indefinibile, strabico, semisciancato, sempre in giro per i marciapiedi, con un grosso fascio di quotidiani sotto il braccio. Fanatico sostenitore dell'Unione Sportiva Estense e popolarissimo in città, veniva trattato normalmente da tutti, me compreso, a bonarie manate sulle spalle, ad insulti affettuosi. Strascicando sull'astrico le scarpacce, Cenzo si dirigeva verso il centro della piazza, tenendo alto con la mano destra un giornale spiegato. «Prossimi provvedimenti del Gran Consiglio contro gli ebrei!» berciava, indifferente, con la sua voce cavernosa. E mentre Nino, dal canto suo, taceva pieno di disagio, io sentivo nascere in me, con indicibile ripugnanza, l'antico, atavico odio dell'ebreo nei confronti di tutto ciò che fosse cristiano, cattolico, goi, insomma. Pensavo anche a via Mazzini, a via Vigna Tagliata, al vicolo Mozzo Torcicoda, al dedalo di strette viuzze, umide d'inverno e soffocanti d'estate che un tempo costituiva il ghetto di Ferrara. Goi, goim, che vergogna, che umiliazione, che ribrezzo a esprimermi così. Eppure ci riuscivo già, come un qualunque ebreo dell'Europa orientale che non fosse mai vissuto fuori dal ghetto. In un futuro più o meno lontano, adesso ne ero certo, loro, i goim, ci avrebbero costretti a vivere di nuovo là, nel quartiere medievale, da cui, in fin dei conti, non eravamo usciti che da 70-80 anni. Ammassati l'uno sull'altro dietro i cancelli, come tante bestie impaurite, non ne saremmo evasi mai più. Mi seccava a parlartene, cominciò a dire Nino, senza guardarmi. Ma non puoi immaginare come quello che sta succedendo mi addolori. Mio zio, l'onorevole, è pessimista, inutile che te lo nasconda. E d'altra parte è naturale, lui ha sempre desiderato che le cose vadano il peggio possibile. Io però non credo. Nonostante le apparenze, non credo che nei vostri riguardi l'Italia si metterà davvero sulla stessa strada della Germania. Vedrai che tutto finirà nella solita bolla di sapone. Avrei dovuto essere grato a Nino di aver intavolato l'argomento. Cos'altro avrebbe potuto dire in fondo? E invece no. Mentre parlava, riuscii appena a mascherare il fastidio che mi davano le sue parole e il tono, in particolare, il tono deluso della sua voce. Tutto finirà nella solita bolla di sapone, aveva detto. Si poteva essere più goffi, più insensibili, più ottusamente goim di così? Gli domandai perché lui, a differenza dello zio, fosse tanto ottimista. «Oh, noi altri italiani, siamo troppo buffoni», replicò egli, senza mostrare di essersi accorto della mia ironia. «Potremo imitare qualunque cosa dei tedeschi, perfino il passo dell'oca, ma non il senso tragico che hanno loro della vita. Siamo troppo vecchi, credimi, troppo scettici e consumati». Soltanto a questo punto, dal mio silenzio, dovette rendersi conto dell'inopportunità, dell'inevitabile ambiguità di quel che stava dicendo. Di colpo il suo viso mutò espressione. «E meno male, non ti pare?» esclamò con allegria forzata. «Viva la nostra millenaria saggezza latina, dopo tutto!» Era sicuro, ripeté, che da noi l'antisemitismo non avrebbe mai potuto attecchire. Bastava, secondo lui, pensare a Ferrara e chissà quante altre città italiane, socialmente parlando, le assomigliavano, per convincersi che una netta separazione dell'elemento ebraico da quello cosiddetto ariano fosse in pratica irrealizzabile. Gli israeliti appartenevano tutti, o quasi tutti, alla più distinta borghesia cittadina. Anzi, in un certo senso, ne costituivano il nervo, la spina dorsale. Il fatto medesimo che la maggior parte di essi fossero stati fascisti e molti della prima ora dimostrava la loro perfetta solidarietà e fusione con l'ambiente. Si poteva immaginare qualcuno più israelita e insieme più ferrarese dell'avvocato Jeremiah Tabet, tanto per fare il primo nome che venisse alle labbra, il quale apparteneva al ristretto numero di persone con Carlo Aretusi, Vezio Sturla, Osvaldo Bellistracci, il console bolognesi e due o tre altri che nel 19 avevano fondato la prima sezione locale dei fasci di combattimento? E chi più nostro del vecchio dottor Corcos? Elia Corcos, il celebre clinico, tanto che, a rigore, avrebbe potuto benissimo sopportare l'incorporazione in effigie nello stemma municipale? E mio padre? E l'avvocato Lattes? Il padre di Bruno? No, no, a scorrere l'elenco del telefono dove i nomi degli israeliti apparivano inevitabilmente accompagnati da qualifiche professionali e accademiche, uno avrebbe avuto subito il senso dell'impossibilità di attuare a Ferrara una politica razziale che avesse qualche pretesa di serietà. Una simile politica avrebbe potuto incontrare soltanto nel caso che le famiglie del genere dei Finzicontini, con quel loro abbastanza atipico gusto di starsene segregati in una grande casa nobiliare e di non comunicare quasi con nessuno, lui stesso, Nino, benché conoscesse assai bene Alberto Finzicontini, non era mai riuscito a mettere piede nel loro magnifico campo di tennis privato, fossero state più numerose. Se non che i Finzicontini a Ferrara rappresentavano appunto una eccezione. E poi non svolgevano anche essi una insopprimibile funzione storica, essendo sottentrati nel possesso del palazzo di Corso Ercole I e delle terre, nonché nel sistema di vivere isolati a qualche antica famiglia dell'aristocrazia ferrarese ormai estinta? Disse tutto questo e altro che non ricordo. Mentre parlava, neppure io lo guardavo. Il cielo sopra la piazza era pieno di luce. A seguire i voli dei colombi che di tanto in tanto lo attraversavano, dovevo socchiudere gli occhi abbacinati. D'un tratto Nino mi posò la mano sul braccio. «Avrei bisogno che tu mi dessi un consiglio», fece. «Un consiglio da amico». «Di che cosa si tratta? Mi prometti la massima sincerità?» «Ma sì». Alcuni giorni avanti, dovevo sapere, egli era stato avvicinato da quel rettile di Gino Cariani, il quale, senza tanti preamboli, gli aveva proposto di assumere la carica di addetto alla cultura. Il primo impulso, da parte sua, era stato di rifiutare. Ma in seguito, ripensandoci, anche quella mattina, al caffè, poco prima che arrivassi io, Cariani era tornato sull'argomento. «Che fare?» domandò a questo punto dopo una pausa. Stringeva le labbra perplesso e io tacqui, ma già riprendeva a parlare. «Vengo da una famiglia che ha le tradizioni che sai», disse. «Ebbene, sta sicuro, quando mio padre verrà a sapere che non ho accettato la proposta di Cariani, si metterà letteralmente le mani nei capelli. Ecco cosa farà. E mio zio, l'onorevole, credi che si comporterà in modo diverso? Sarà sufficiente che papà gli chieda di mandarmi a chiamare e lui, pronto, lo accontenterà subito, non fosse altro che per distogliere da sé ogni accusa di proselitismo. Vedo già la sua faccia nel momento che mi inviterà bonariamente a tornare sulla mia decisione. Sento già le sue parole. Mi esorterà a non comportarmi come un bambino, a riflettere, perché nella vita si sa, eccetera, eccetera, eccetera». E rise. Disgustato. «Guarda», aggiunse, «ho tanto poca stima della natura umana e del carattere degli italiani in particolare da non poter garantire nemmeno di me stesso. Viviamo in un paese, carissimo, dove di romano in senso antico, è rimasto soltanto il saluto col braccio alzato. Ora anch'io mi domando, a qua bon? Alla fin fine, se rifiutassi, faresti molto male», lo interruppi tranquillo. Mi scrutò con un'ombra di diffidenza. Parli sul serio? Come no? Non vedo perché non dovresti aspirare a far carriera nel partito o attraverso il partito. Se io fossi nei tuoi panni, se, voglio dire, studiassi legge come te, non esiterei un istante. Avevo avuto cura di non lasciar trapelare nulla di ciò che avevo dentro. Nino schiarì l'espressione del proprio viso. Accese una sigaretta. Ah, la mia obiettività, il mio disinteresse lo avevano colpito profondamente. Mi ringraziava del consiglio, disse poi, restituendo all'aria una prima grossa boccata di fumo. Quanto a seguirlo, però, ci avrebbe pensato ancora qualche giorno. Voleva vedere chiaro nelle cose e in se stesso. Il fascismo era in crisi, senza dubbio, ma si trattava di crisi nel sistema o del sistema? Agire, va bene, ma come? Cercare di cambiare le cose dall'interno o magari... E terminò con un gesto vago della mano. Comunque, i giorni prossimi, riprese, sarebbe venuto a trovarmi a casa. Ero un letterato, è vero, un poeta, e sorrise, tentando di assumere ancora una volta quel tono tra affettuoso e protettivo da politico che spesso assumeva nei miei confronti. Lui, ad ogni modo, ci teneva moltissimo a riesaminare insieme con me l'intera questione. Dovevamo telefonarci, vederci, mantenere a tutti i costi i contatti, insomma, reagire. A proposito, chiese improvvisamente, corrugando la fronte. Quando è che hai il primo esame a Bologna? Bisognerà pensare al rinnovo dell'abbonamento ferroviario. Accidenti.